Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, cari gastronauti, cari radioascoltatori, oggi parleremo di stelle cadenti, di stelle respinte, di stelle al capolinea, di stelle emergenti. Un po' lo stato dell'arte della ristorazione. È uscita la Michelin, ma non vogliamo parlare solo della Michelin, vogliamo parlare dello stato dell'arte della ristorazione in questo momento, perché ci sono dei segnali abbastanza preoccupanti. Ben 14 stellati o ex stellati hanno chiuso, che vuol dire che la notorietà forse non basta per proseguire l'attività, ma andremo a verificare anche con chi ha chiuso, perché ha chiuso e se le ragioni sono economiche, se le ragioni sono di altro genere. Comunque ricordo, numero verde 800 24 00 24 per i nostri radioascoltatori che vogliono intervenire in questo dibattito, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, iniziamo questa mattina così a parlare di stelle respinte. Stelle respinte perché? Perché già l'anno scorso Gualtiero Marchesi, un mostro sacro della ristorazione italiana, aveva detto: non voglio più essere giudicato non solo dalla Michelin ma dalle guide. Quest'anno un altro mostro sacro, Ezio Santin dell'antica osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano, ha detto stop alle recensioni, stop a parlare di stelle, stop a parlare di votazioni. Ebbene, allora cosa sta succedendo? Bene, questi due personaggi hanno avuto 3 stelle a loro tempo ed erano casi rarissimi quando sono stati così premiati dalla Michelin. Allora chiedo, Ezio, che è successo? Pronto? Pronto? Ezio Santin, che è successo? Buongiorno, perché? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Perché questa decisione? Ma è successo che, sai, a lungo, dopo 30 anni, 33 anni di lavoro impegnato a raggiungere i vertici che abbiamo anche raggiunto, no? Quindi è molto impegnativo. Io ho deciso, io e Renata naturalmente, che siamo i conduttori, abbiamo deciso di rinunciare ai giudizi delle guide. Cioè ci davano troppo pressione. Io sarei stato contento se una guida mi avesse lasciato un angolino senza nessun punteggio, solo il giudizio critico e basta. Però questo non può succedere e allora io ho rinunciato. Senti Ezio, tu per tanti anni però sei stato sotto pressione. Certo, è quello Davide che a me mi ha dato questo spunto, no? Perché no, per quegli anni che devo continuare a lavorare, vorrei lavorare in serenità. La mia cucina sarà sempre quella, il servizio sarà sempre quello, il ristorante non cambia per niente, però io vorrei lavorare più in serenità, non vorrei star lì sempre col patema d'animo quando vedi una persona seduta a un tavolino che scrive qualcosa, dici, questo qui adesso ma cosa farà? Lavorare per i miei clienti. Bene, rimani con noi, abbiamo già un radioascoltatore, Luigino da Mantova. Buongiorno Luigino. Buongiorno, parlo col ministro del vino, giusto? Sì, sì, è una battuta di un collega questa, ma bene. Luigino, allora? Niente, io volevo solo manifestare il disappunto per la stella tolta all'ambasciata di Quistello recentissimamente e soprattutto dire che le guide francesi ci hanno insegnato soprattutto a usare la panna in cucina e a mettere carte dei vini con prezzi inaccettabili. Tutto qui. Bene, grazie Luigino. Allora io direi che prendo spunto da questa telefonata e ne aggiungo un'altra, aggiungerò un'altra affermazione. Bene, è stata tolta una stella allo storico romano di Quistello dell'ambasciata ed è stata tolta anche una stella a Paolo Priore del Canto del Maggio di Siena. Bene, se qualche radioascoltatore su queste due stelle che sono state penalizzate e su appunto vuole intervenire, lo faccia pure, il telefono è aperto. Sentiamo Antonio da Caserta, un altro radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Pronto? Sì Antonio, l'ascoltiamo, ci buongiorno, dica. Buongiorno, saluto tutti gli ascoltatori. Niente, io praticamente volevo fare un piccolo intervento, cioè quello che reputo è che le guide sono pilotate, fondamentalmente non sono veritiere, ecco perché molti non vogliono più partecipare a essere iscritti o a essere... È caduta la linea, forse questa telefonata era pilotata. Vabbè, continuiamo. Secondo, abbiamo con noi, e mentre aspettiamo che venga così ripreso questo radioascoltatore, perché stava dicendo delle cose abbastanza serie, quindi vorrei ascoltarlo e vorrei anche replicare. E sentiamo un non un critico, ma un grande osservatore dalla Svizzera della ristorazione italiana e del mangiare italiano, che è Elvio Gorelli. Elvio Gorelli ha un sito molto importante e poi è direttore di un'azienda che opera nei settori della promozione turistica e appunto della gastronomia. Buongiorno Elvio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, dalla Svizzera, dalla calma Svizzera, come vedi questa rinuncia prima di Marchesi e poi di Santin? Ma io penso che sia un segnale veramente che deve far pensare, perché sicuramente manca il voler accettare una realtà che sta trasformando la cucina contemporanea, perché noi stiamo assistendo a una forma di arte contemporanea e probabilmente chi recensisce questi nuovi stili gastronomici non è più in grado di farlo. Quantomeno non tutti sono in grado di recepire determinate emozioni che la cucina comincia a trasmettere. A mio avviso, insomma, dopo la bocciatura di Lo Priore, che è assurda perché è stata giudicata da tutto il settore enogastronomico, giornalistico, è veramente una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere, ecco. C'è stata questa rivolta totale di tutti i giornalisti perché probabilmente qualcosa non è stato percepito. Chiaramente ci sono tante guide, la guida viene sempre accettata diciamo dal mondo della ristorazione, perché rimane fondamentalmente una comprovazione dei risultati ottenuti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di stile, a parlare di guide. Antonio da Caserta, lei abbiamo ripescato questo nostro radioascoltatore che stava dicendo che le guide sono pilotate. Pilotate da chi, Antonio? Ma no, non è che puoi, cioè, non si può dire di chi, nel senso che però sono pilotate nei giudizi, non sono giudizi veritieri, perché altrimenti non si riscontrerebbe una così riluttanza ad essere votati da guide. Cioè non c'è un ritorno su una valutazione di una guida. I grandi ristoratori lo sanno, altrimenti non ci sarebbe motivo logico di essere esclusi o di non voler essere recensiti su una guida. Cioè è una realtà di fatto. Bene, grazie Antonio. Io credo che siano veramente ben pochi, perché Santine e Marchesi sono due personaggi che sono stati giudicati per 30 anni e quindi non è che si sono ribellati anni fa, si sono ribellati ora forse, perché sicuramente anche gli anni passano e ci vuole anche un po' di calma, un po' di tranquillità. Ma sentiamo Claudio da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, intanto quel discorso, riallacciandomi al discorso del signore di prima, che le guide siano un po' pilotate, l'abbiamo anche visto a diverse trasmissioni in televisione, e quindi insomma, vabbè, adesso non andiamo qui a... Beh, su questo polemiche, mettiamoci, no? Una pietra sopra, perché quelle trasmissioni televisive poi si sono veramente rivelate un grande bluff. Basta vedere che tutti i prodotti che erano stati sequestrati sono stati dissequestrati, quindi comunque andiamo oltre. Diceva Claudio. Senti, sicuramente il fatto di essere giudicati comunque da su tutto l'opera della grande inventiva e la grande ricerca di materie prime, che siano poi giudicate così, magari in una giornata poco felice per il recensore, insomma è un peccato questo. Sicuramente chi rinuncia a farsi giudicare non fa poi così tanto male. Però al di là di questo, io mi volevo riallacciare alla difficoltà dei ristoranti in questo momento. Io sono un operatore del settore e vedo che le aziende stanno facendo veramente i salti mortali per fare offerte, per far comprare meglio i ristoratori, ma non ho visto un ristoratore che sia uno che abbia voluto fare, che ne so, per esempio un'offerta. Visto che siamo in periodo di magra, non c'è stato un ristoratore che si sia messo la mano sulla coscienza, abbia passato per esempio la carta dei vini, per esempio sui vini, ricarichi di 4-5 volte, e nessuno di ristoratori abbia fatto un minimo di passo indietro. Ecco, forse qui dovremmo riflettere un po' tutti, pensare che al ristorante si può sicuramente spendere meno e si può stare molto bene. Forse questo è un messaggio di grazie Claudio, perché sicuramente lei ha lanciato un altro argomento molto interessante, ma io voglio tornare velocissimamente a Santin. Santin, Ezio, ma è pressione quella che tu senti, oppure quello che dice Gorelli, che forse non c'è più da parte di chi giudica la conoscenza di quello che va giudicando, e quindi una grande preparazione? No, guarda Davide, lungi da me di far polemica sulla conduzione o l'espressione delle guide. Hai detto giusto tu prima, hai detto passano gli anni e il peso diventa più notevole, cioè più faticoso, e quindi questa pressione, se ne possiamo fare a meno, viviamo un po' più tranquilli, ecco, è questo, solo questo. Bene. Io non voglio giudicare assolutamente l'operato delle guide. Grazie a Ezio Santini. A te Davide. Grazie, a presto. Ora andiamo da chi invece da due è andato a tre stelle, un traguardo importantissimo, è il ristorante da Vittorio di Bergamo, una lunga storia della famiglia Crea. Buongiorno a Chico Crea. Cerea, ciao Davide. Cerea, scusa, mi hanno posposto le cifre sul display, mi spiace molto. Chico, volevo chiederti questo, ma ecco, la pressione, ora che il vostro ristorante ha tre stelle, cioè tu pensi che veramente dia pressione e quindi bisogna essere tutti i giorni ancora più di prima pronti all'altezza a essere giudicati? Assolutamente sì, l'ho detto anche in conferenza stampa, è bellissimo il momento della giudicazione delle tre stelle, una gratificazione, soprattutto per il ricordo di mio padre, che è lui che ha iniziato tutto, quindi glielo dovevamo, e parte di queste stelle sono anzi quasi tutte sue. Noi abbiamo continuato la sua opera. E l'ho detto, e ho detto che sì, da domani, cioè il giorno dopo, sarà sempre più dura perché sai che sei sotto la lente, sei sotto l'occhio critico di tutti quelli che verranno qua, e io invece mi auguro che chi venga qua da noi sono le stesse persone di prima, vengono per passare una bella serata, per mangiare bene e per godere della vita, insomma, ecco. Chico, dal momento in cui è uscita la notizia che avevate tre stelle, cos'è successo nelle prenotazioni? Per adesso niente di diverso da prima, però spero che succeda qualcosa. No, mi aspetto tanta gente da fuori, nel senso che abbiamo la fortuna di essere a 2 chilometri dall'aeroporto di Orio, e come tu sai, ho tanti bei viaggi, anche low cost, e penso che possano arrivare tanti ospiti da tutta Europa. E oltre questo siamo anche il 3 stelle più vicino a Milano, quindi penso che insomma ci porti, visto il periodo di crisi, ci dia una mano a superare questo momentaccio, perché anche noi dall'inizio dell'anno ne abbiamo risentito, e quindi insomma il momento non è dei più semplici. Ecco, ma sii sincero, ve l'aspettavate la 3ª stella? Guarda, 2 o 3 anni che ne parlavano, se ne sentiva parlare, e ci credevamo, è inutile negarlo, non ci credevo, però ho detto non arriva l'anno scorso, vediamo come va. Invece è arrivata, e la felicità è stata veramente davvero tanta, perché poi noi siamo un gruppo, e quando poi se si soffre in tanti, ma se si gioisce in tanti è ancora più bello. Bene, grazie, buon lavoro. Torniamo a Elvio Gorelli. Gorelli, hai sentito un po' il discorso anche di Santina, la pressione, non è il discorso dell'interpretazione così dei nuovi stili, diciamo, emergenti, anche perché Santina ha uno stile che, cioè, è da anni che è quello. E tu pensi quindi che sia veramente un fatto così, che se c'è un'evoluzione molto veloce oggi nella cucina, e quindi non si riesce a recepire tutto quello di nuovo che sta succedendo? Ma sicuramente sì, ma io mi riferisco soprattutto anche agli stili. Diciamo che chiaramente la Spagna ha influenzato tantissimo la gastronomia mondiale, e questo ha fatto sì che tantissimi chef italiani seguissero e poi interpretassero soggettivamente quella che era un'evoluzione, insomma, insegnata soprattutto da Ferran Adrià. Certo è che la cosa strana, almeno che mi è saltata subito agli occhi, è aver visto che tra tutti gli altri 2 stelle, chiaramente faccio i complimenti a Chico Cerea perché è meritatissima la sua promozione, comunque in Italia, con tanto professionismo riconosciuto anche all'estero, non ci sia stato nessun altro 3 stelle. tutti quanti si aspettavano almeno altre due o almeno tre promozioni a 3 stelle. Ma questo credo che sia tutti gli anni che l'Italia si aspetta grandi promozioni, poi tutto il più si va veramente contando 1 o 2 massimo all'anno, mentre all'estero succedono tutt'altre cose purtroppo. Per esempio in Svizzera c'è stato un ristorante di cucina indiana, è fondamentalmente etnico per gli svizzeri, che ha ricevuto una stella Michelin. E cosa che in Italia probabilmente... Beh, sulla cucina etnica italiana mettiamo anche qui una pietra sopra, perché veramente ecco. Il livello è veramente disastroso. Grazie Elvio, ti ringrazio, grazie del tuo grazie intervento. Sentiamo Giampiero da Imperia, buongiorno Giampiero. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Io volevo parlare di stelle tedesche, che dato che ho un amico in Germania che ha un bellissimo ristorante italiano, solamente italiano, non è una pizzeria, e... Tempo fa, cioè, questo mio amico ha cambiato il ristorante da circa 6 mesi, ha rinnovato, ha avuto delle interviste da giornalisti del campo, sì. E gli hanno chiesto a quando le prime stelle, no? Perché meriterebbe vendere stelle. La sua risposta è stata che io preferisco avere nessuna stella ma avere il locale pieno. Bene, grazie Giampiero, perché abbiamo tante domande. Questo può essere un altro tema di discussione. Ora voglio andare a Torre Pellice a Torino da Walter Ernard, che è il ristoratore famosissimo che aveva Flip Pot, lo ha chiuso, anzi lo ha trasformato in un locale su prenotazione, erano 2 stelle, e gli voglio chiedere: ma era forte la pressione della Michelin che ti ha fatto prendere questa decisione, Walter? Buongiorno, grazie mille. No, non è una questione di pressione né di Michelin né delle altre guide, eccetera. Per noi è stata una questione di una scelta di vita, se vuole, cioè nel senso di dire, a un certo punto sono anni che facciamo questa vita, eccetera, sono quasi 30 anni, per cui abbiamo avuto la voglia di goderci un po' più la nostra privacy, la nostra intimità, la nostra cosa. Abbiamo aperto anche un'osteria qui vicino su cui riusciamo a giocare molto di più, e devo dire che siamo contenti, anche perché, cioè, facendo solo su prenotazione riusciamo a coccolare di più i nostri ospiti, nel senso che facciamo un tavolo per volta, un evento per volta, per cui il locale è tutto a disposizione dei nostri ospiti e ci diciamo che ci stiamo divertendo di più, ecco, tutto lì. Non è una questione di pressione, non è una questione di guide, è una questione di una scelta di vita, ecco. Tutto lì. Quindi una scelta di vita, grazie a Walter Erna. Sentiamo Alberto da Reggio Emilia, velocissimo perché ho pochi secondi. Guardi, io sono un addetto ai lavori, nel senso che faccio il critico d'arte, quindi mi trovo a valutare un altro genere di arte, ma il discorso è analogo. Il problema è un problema di valori, si tratta di capire quali sono i valori attraverso i quali si valuta un ristorante o una realtà come può essere. Io sono rimasto molto stupito dal declassamento dell'Ambasciata di Quistello, che è un ristorante emblematico, un guardiano della grande tradizione, dei grandi sapori, e quindi tutto quello che va contro la moda, che va contro il passare veloce dell'occhio e del gusto su di un piatto. E trovo che questo sia molto preoccupante, perché denota una perdita di identità, che non solo perdita di identità della cucina italiana, ma anche della cucina locale, quindi di quella varietà e di quella diversità che è un valore aggiunto, che invece da molti viene vissuto come un valore. Questo avviene nella pittura, questo avviene nella musica, questo in Bene. Italia avviene in ogni livello. Abbiamo capito perfettamente il suo messaggio, poi tornerò anch'io sulla Romano da Quistello. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di stelle nel senso di ristoranti che chiudono, ristoranti che sono al capolinea, ristoranti che emergono e ristoranti che respingono le stelle. Bene, abbiamo con noi ora, ma prima sentiamo un radioascoltatore che è da tempo in linea, Marco dalla provincia di Lodi. Buongiorno Marco. Eccomi, buongiorno a tutti. Dunque, l'ambasciata, anche a me ha sorpreso il suo declassamento, concordo in pieno con l'ascoltatore di prima. Invece un altro locale dove sono stato recentemente, l'Arsenale. Sì, prego. Io sono, a un certo punto ero con amici e pensavamo di essere su Candid Camera o su Scherzi a Parte, perché è stato imbarazzante. Dal cestino del pane sino a abbiamo chiesto di poter cenare nel cortiletto e ci è stato risposto dal cameriere, che era una signora, che lei era allergica alle punture delle zanzare e quindi non potevamo. Un solo cameriere per 3-4 tavoli, un'attesa infinita, siamo rimasti senza acqua per... molto. Ma mi sembra che sia stato declassato dalla Stella anche l'Arsenale. Credo che dovrebbe andare in negativo. Bene, no. grazie Marco, grazie del suo intervento. Ora torniamo a parlare un po' di ristoranti che hanno cambiato faccia o di chef che hanno cambiato così impostazione d'altro. Andiamo da Vittorio Fusari è ex del ristorante Il Volto, quindi anche lui è un personaggio importante che è della ristorazione italiana e lombarda in particolare. Anche lui a un certo punto della sua vita ha cambiato e ha detto, come ha fatto il nostro amico Flitpot, ha cercato un'altra soluzione. Perché Vittorio questa decisione? Ah, buongiorno intanto Davide. Perché sono tanti. Il primo perché è oggettivo, non andavo più d'accordo con i miei soci Al Volto. Il secondo perché è che tutte le cose che devono continuare un movimento devi percepire quello che succede nella società e devi comunque adeguarti a fare delle proposte che sono diverse da quelle che erano in passato. Credo che la cucina non possa fermarsi e così anche la forma in cui viene servita o si esprime non deve fermarsi a dei canoni che sono quelli stabiliti, compresi i canoni della Michelin, che sono importanti, importantissimi, ma forse sono anche molto datati. Senti, tu prima eri sottoposto alla pressione per le stelle. Ecco, questo è un fattore importante nel lavoro, incide, preoccupa, può così creare dei problemi anche a livello di creatività d'altro oppure no? No, io ho sempre pensato che la pressione, quella vera, è lo stimolo, è un elemento stimolante, quindi non è questa la forma di pressione che ti mette in agitazione e quindi ti mette in fase di stress, no, la creatività è legata veramente agli stimoli, gli stimoli che possono essere, che devono essere interni e possono anche essere favoriti da una pressione esterna. Le stelle possono essere veramente un buon motivo per lavorare con più attenzione e con più cura, ma non devono essere l'unico motivo per cui uno deve lavorare con attenzione e cura, e questo è assolutamente importante. Ecco, rimani con noi, sentiamo Giorgio dalla provincia di Livorno. Buongiorno Giorgio. Ciao Davide, sono Giorgio Dracopoulos, gastronomo del Corriere del Vino. Ti volevo dire che forse è colpa anche nostra di critici, dobbiamo fare un pochino di autocritica, perché quando andiamo a fare una visita in un ristorante ci basiamo soltanto sulla critica, che non è a volte costruttiva. Bisogna aiutarla la ristorazione italiana in questo momento, perché è in grandissima difficoltà. Ci sono grandissimi ristoranti che piangono lacrime di sangue perché i clienti non ne hanno, a pranzo soprattutto il deserto dei tartari. E la ristorazione italiana in questo momento ha grande bisogno d'aiuto, e pertanto io vorrei fare un invito a tutti i colleghi di aiutarlo, di dire cos'è che non va eventualmente, non di andare via e poi dare un giudizio che spezza le gambe. Una giornata negativa, Davide, può capitare a tutti, giusto, no? Bene, grazie Giorgio di questo tuo intervento, e abbiamo con noi uno che fa il critico sul Giornale di Vicenza, ed è Antonio Di Lorenzo, sempre molto attento anche a quello che succede nel panorama italiano. Hai sentito, Antonio, così il nostro collega Giorgio da Livorno? Sì, l'ho sentito, la sua preoccupazione è fondata perché la situazione è seria. Io ti porto due dati che giustificano anche queste assenze. La nostra provincia era indicata come la locomotiva d'Italia, 8 anni fa aveva un PIL in aumento del 3,5%, attualmente i settori come il metalmeccanico sono sotto di ordinativi del 40%, l'orafo del 30% e la concia anche sta soffrendo, quindi ci sono problemi a riempire i ristoranti. Questo è un primo aspetto del problema. Un secondo aspetto, mi rendo anche conto che ci sia una tensione, ma non è, come è stato detto, anche soltanto la tensione che può creare una guida, è un fenomeno complessivo. Io vorrei ricordare che in Italia ci sono 350.000 blog, cioè 350.000 persone alla mattina si svegliano e scrivono, e in buona parte scrivono di gastronomia, quindi la situazione deve essere valutata anche sotto questo profilo. Terzo aspetto, noi credo che facciamo il nostro mestiere, il nostro dovere, facendo i cronisti, cioè raccontando quello che sta succedendo senza preoccupazione di voler per forza sostenere anche quello che non si può sostenere. Dall'altra parte credo che siano cambiate anche delle sensibilità e gli stessi ristoratori devono pensare a personalizzare di più i loro menù, anche i loro locali, senza cercare, pensare di mettere i piedi nelle orme altrui e di arrivare agli stessi livelli. Ecco, questi sono gli aspetti che mi... Sentiamo Roberto dalla provincia di Savona, un radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno a lei. Senta, io non sono ovviamente un addetto ai lavori, sono semplicemente un appassionato, quindi leggo le guide e cerco di frequentare nel limite dei miei budget i ristoranti. La mia impressione è che ci sia una grande novità che riguarda le guide, che è internet, mi spiego meglio. Secondo me le guide frequentano i primi 30, 40, 50 ristoranti d'Italia, però questi sono i ristoranti che il privato... Scusa, la contraddico, perché ci sono guide che hanno 2.000-2.500 ristoranti. Mi perdoni, io volevo dire questo: le vere recensioni a mio parere vengono fatte sulla crema, i migliori ristoranti d'Italia. Tutti gli altri secondo me sfruttano un pochino, la novità è questa, è una mia impressione, internet. Mi spiego: se io digito il nome di un ristorante su internet, trovo il menù, il prezzo, l'ambiente, l'atmosfera, prendo queste notizie, le metto su una guida e parlo dei 1700 ristoranti che non fanno parte dei 300 che sono la crema. È lì che io vorrei trovare... Beh, Roberto, guardi che le guide sono nate, le guide con 2.000-2.500 ristoranti sono nate prima di internet, quindi... Ma secondo me ultimamente sfruttano internet. Bene, grazie. Non dicono nulla, grazie, arrivederci. Sentiamo Vittorio Fusari cosa ne pensa di questo. Non so, bisogna chiedere a chi stila le guide, se usa più internet o se più viaggia dentro i ristoranti. Ma tu cosa ne pensi, che internet possa sostituire le guide? No, le guide hanno una funzione, mi piaceva quando diceva prima qualcuno che dovrebbe essere critico, ma inteso come anch'io affermavo, come una critica stimolante nel senso sia della recensione, ma sia nel senso dello stimolo, quello creativo, la capacità di comunicare con la ristorazione attraverso le guide devono interagire con la ristorazione, non solo giudicare, secondo me, perché solo così trasmettono un messaggio al pubblico, altrimenti sì, potrebbe essere internet e allora non servirebbero le guide. Bene, grazie Vittorio Fusari, che ricordo è in questo momento ha aperto un locale che si chiama Dispensa Pani e Vini ad Adro in Franciacorta, appunto con Cosgri, è anche un negozio dove si vendono anche dei prodotti. Beh, sentiamo Tommaso da Firenze. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno Davide, buongiorno a te. Io sono molto interessato al discorso della crisi della ristorazione e ai nuovi progetti per movimentare, per trovare nuove soluzioni. Noi in particolare stiamo riconvertendo un locale che non per merito o colpa nostra ha avuto una crisi di diversi anni, dando la possibilità ai clienti stessi di mettersi a fornelli e di cucinare per i loro amici. Questa è una cosa che ha preso piede, abbiamo trovato dei clienti addirittura che hanno già cucinato per 7-8 serate e ne stiamo provando un'altra che è un po' più complicata dal punto di vista amministrativo, che è quello di un ristorante in multiproprietà. Bene, i ristoranti, diciamo che la crisi aguzzano il cervello, come si sente. Ho un minuto, Antonio Di Lorenzo, voglio chiederti, internet può sostituire le guide? È il dibattito che nel mondo dell'informazione sta occupando tutte le energie. Una volta si diceva che i giornali dovevano chiudere nel 2043, adesso credo che le previsioni siano completamente diverse e tu sei l'esempio di come un mezzo di comunicazione si può reinventare, come questo della radio, nonostante ne sia arrivato un altro dalla televisione a internet ai cellulari, per cui bisogna avere fiducia, ogni mezzo ha un suo pubblico, ha un suo spazio. Io sono convinto che internet non taglierà l'erba sotto i piedi delle guide. Bene, grazie Antonio Di Lorenzo. E il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di ristorazione, cosa sta succedendo, qual è lo stato dell'arte. Allora andiamo in Basilicata. Andiamo in Basilicata da un altro ristoratore storico, da Rino Botte, che in questo momento era alla locanda del Palazzo di Barile a Potenza, ma per anni è stato a Cremona e quindi è una stella da tantissimi anni della guida Michelin. Buongiorno Rino. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Come mai questa decisione di chiudere, Rino? No, questa decisione di chiudere è dovuta al fatto che stiamo ristrutturando la locanda del palazzo e una parte del ristorante dovrà essere utilizzata per un'altra situazione, per la quale abbiamo un borgo cantina nella quale nella parte del ristorante, tu lo conosci, molto bello, una parte verrà utilizzata come barriccaia e spostiamo il ristorante e c'è una lunga ristrutturazione che andrà avanti per 7-8 mesi, per cui per onestà ho mandato la lettera dicendo che era inutile che i clienti arrivassero alla locanda e la trovassero chiusa. Quindi riavremo la locanda del palazzo. L'ho persa, ma diciamo che sì, il ristorante è chiuso, aprirà con un altro concetto, con un ristorante meno impegnativo, meno formale, perché penso che in effetti ci sia un'esigenza diversa. La regola del vecchio ristorante, secondo me, sta un pochettino invecchiando. Ecco, la gente ha bisogno di emozioni, ha bisogno, e una buona cucina si può fare anche secondo dei canoni diversi. Bene, grazie Rino, questa notizia è molto positiva perché appunto io avevo letto questa cosa e pensavo che fosse definitiva, invece mi rincuora. Grazie a Rino e fra un anno quindi. Sentiamo Luca da Bologna, radioascoltatore. Buongiorno Luca. Pronto, buongiorno. Mi dica. Allora, io volevo chiedere questo, sono un normale frequentatore di locali, di ristoranti e diciamo mi piace andare appunto in questi che sono segnalati nelle guide Michelin o anche altre. E la mia domanda era questa, ci si può ancora fidare di queste segnalazioni oppure come dicono tanti sono un po' diciamo così... Guardi Luca, l'anticipo, le dico che la miglior risposta è questa: lei prenda una guida, vada in 2-3 ristoranti recensiti da quella guida e poi si faccia una sua opinione, perché io credo che il cibo, il gusto siano soggettivi e ognuno di noi si deve fare una propria opinione. Quando avrà visto che corrispondono al suo gusto e le recensioni e le votazioni, io credo che debba scegliere quella guida, credo che sia il sistema migliore. Grazie a Luca. Ora abbiamo due ristoratori. Perché questi due ristoratori? Perché secondo me sono smentiti due luoghi comuni della guida Michelin. Un tempo si diceva che quando si passava da una stella a due stelle bisognava aspettare molto e altre volte si diceva che certi locali in certi punti dell'Italia, magari che non erano stratosferici dal punto di vista dell'arredamento e del servizio ed altro, non avrebbero mai avuto grandi risultati sulla guida Michelin. Ebbene, io credo che Nino Di Costanzo, del chef del ristorante Il Mosaico, Casamicciola Terme, Napoli, che poi è l'isola d'Ischia, smentisca il primo luogo comune che si può passare da 1 a 2 stelle, anzi da 0 a 2 stelle nel giro di pochissimi anni. Vero Nino? Sì, buongiorno Davide. È così? Sì, tu è così. Noi abbiamo appena aperto in linea di tempi, di mesi, sono 18 mesi, cioè in 3 anni, calcolando che siamo aperti solo 6 mesi l'anno, quindi sono 18 mesi. Sì. E quindi in 18 mesi sei passato da 0 a 2 stelle? Sì. Ecco, ma una cosa, cioè è una cosa inaspettata, la tua cucina in questi 18 mesi, sì, secondo te ha avuto dei balzi in avanti oppure sicuramente sono stati migliorati dei particolari? No, sicuramente, io sono partito con una mina molto creativa, poi diciamo maturando, crescendo giorno per giorno ho capito che comunque la cosa più importante per me era la tradizione, reinterpretare i piatti della nostra tradizione, del nostro territorio, logicamente puntando alla cosa più importante che è la materia prima, quindi sicuramente 3 anni fa non facevo i piatti che faccio oggi, sicuramente fra un mese non farò i piatti che facevo l'anno scorso. Quindi da 1 a 2 stelle c'è stato un cambiamento, così? Sicuramente. Bene, grazie Nino Di Costanzo. Bene, come dicevo, questo è il primo luogo comune. Il secondo, con uno straordinario chef che io stimo moltissimo, che è Pino Cuttaia, che è la Madia di Licata, provincia di Agrigento, che per raggiungerla sicuramente bisogna fare molta strada sia da Palermo che da Catania, ma soprattutto che Licata è abbastanza, come posso dire, sperduta come posto, non ha dei centri turistici vicini importantissimi dove diciamo c'è grande affluenza. Eppure Pino Cuttaia è riuscito in pochi anni anche lui a raggiungere le 2 stelle, meritatissime. Buongiorno Pino. Buongiorno Davide. Ma te l'aspettavi le due stelle, Pino? No, ma infatti mi voglio legare al tuo discorso e voglio dire questo, cioè voglio dire che colpa ne ho se sono una tradicata, voglio dire questo. Allora, io dico che il modo per cui uno, il cuoco che va in giro, che fa la propria esperienza e poi torna a casa perché? Perché comunque vuole proprio stare bene, stare, visto che è un lavoro così difficile e impegnativo, per cui ci possono essere sempre l'idea di tornare a casa, no? E non superare l'ostacolo. Invece quando si è già a casa non puoi andare da nessun'altra parte. Questo vuol dire che probabilmente ti stimola il lavoro, ti stimola la creatività stare a casa, così? Sì, mi stimola anche il fatto di non sentirsi estraneo in un altro paese, no? Significa che comunque sei con il tuo quotidiano, dove sei nato, il tuo quartiere, i tuoi amici, hai rapporto, cioè in un'altra maniera, ecco. Ma d'ora in poi la sentirai la pressione di queste due stelle? Ti senterai così come sotto esame continuamente? Ma guarda, io parto da un presupposto, poi certo che la gente magari, io ho paura che cambi la gente, non cambiamo noi. Cambia la gente nel senso che magari ha delle aspettative in più, quanto noi non, cioè andiamo avanti lo stesso, certo abbiamo voglia di crescere, abbiamo voglia di comunicarlo, ecco, spero che la gente non è cattiva, ecco. Bene, grazie Pino e congratulazioni. Grazie. Sentiamo Stefano dalla provincia di Como, l'ultimo radioascoltatore, veloce che ho pochi secondi. Buongiorno. Stefano, veloce perché ho pochi secondi, mi dica. No, io volevo solo dire che per quanto è chiaro che è meglio mangiare una volta sola e mangiare bene piuttosto che andare in 3-4 ristoranti e mangiare mediocremente o male, però va tenuto conto anche dei costi che hanno questi ristoranti, anche se questi chef molto spesso sono geniali. Bene, grazie Stefano. Io volevo dire, abbiamo detto due luoghi comuni smentiti dalla Michelin, che sono appunto Nino Di Costanza e Pino Cuttaia, però vorrei aggiungere che anch'io sono rimasto sorpreso dalle due declassamenti di Paolo Lo Priore e di Romano di Quistello, per un motivo: che Priore è sicuramente un creativo sempre alla ricerca di un qualcosa di nuovo, per questo doveva essere stimolato, e Romano, io credo che se le due stelle gli sono state così date 5, 6, 7 anni fa, probabilmente la sua cucina è rimasta tale quale, ma questo non vuol dire che è stantia, è vecchia, si rifà la tradizione, quindi quei piatti sono sempre quelli, e credo che assolutamente anche in questo caso non siano meritati questi due declassamenti. Con questo chiudo, saluto tutti, vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, alle 12.15 col Wine Bar del Gastronauta e tutti i giorni con la pillola alle 18.30. Buon weekend dal vostro gastronauta. Il gastronauta.